dall'esprimere quei sentimenti, l'avrebbe comunque preservato la qualità in qualche modo morale della sua intelligenza. Nei lavoratori intelligenti e davvero seri vi è una certa avversione per quanti mettono in letteratura quel che fanno e lo ostentano. Non eravamo stati assieme né al liceo né alla Sorbona, ma avevamo seguito, separatamente, certe lezioni degli stessi maestri e ricordo il sorriso di Saint-Leu, i quali, tenendo come alcuni altri delle ottime lezioni, volevano farsi passare per uomini di genio dando un nome ambizioso alle loro teorie. Se solo ne parlavamo, Robert rideva allegramente. Naturalmente le nostre preferenze non andavano distinto ai Cottard o ai Brichot, ma tutto sommato avevamo una certa considerazione per chi conosceva a fondo il greco o la medicina, senza credersi per questo autorizzato a fare il ciarlatano. Ho già detto che sebbene tutte le sue azioni si basassero un tempo sul sentimento che avrebbe dato la vita per sua madre, la mamma non aveva mai formulato a se stessa tale sentimento e avrebbe trovato comunque non soltanto inutile e ridicolo, ma urtante e vergognoso esprimerlo agli altri. Allo stesso modo, mi è impossibile immaginare in bocca a Saint-Leu, quando mi parlava del suo equipaggiamento, delle faccende che doveva sbrigare, delle nostre possibilità di vittoria, dello scarso valore dell'esercito russo, di che cosa avrebbe fatto l'Inghilterra. Mi è impossibile immaginare sulla sua bocca la frase, fosse anche più eloquente, detta dal più simpatico dei ministri davanti ai deputati scattati in piedi per l'entusiasmo. Non posso peraltro affermare che in questo lato negativo, che gli impediva di esprimere i bei sentimenti che provava, non ci fosse un riflesso dello spirito Germain, di cui abbiamo visto tanti esempi in Swann. Infatti, anche se lo trovavo soprattutto Saint-Leu, Robert restava anche Germain. E in questo senso, fra i numerosi moventi che eccitavano il suo coraggio, ce n'erano alcuni che non erano gli stessi dei suoi amici di Doncier, giovani tutti presi dal loro mestiere, con i quali avevo pranzato ogni sera e parecchi dei quali si fecero ammazzare alla battaglia della Marna o altrove alla testa dei loro uomini. I giovani socialisti, che potevano essere a Doncier quando c'ero io, ma che non conoscevo perché non frequentavo il giro di Saint-Leu, poterono rendersi conto che gli ufficiali che ne facevano parte non erano affatto degli Aristò, nell'accezione d'altezzosa fierezza e di bassa crapulosità che davano a questo soprannome il popolino, gli ufficiali venuti su dalla gavetta e i massoni. E analogamente, d'altronde, quello stesso patriottismo, gli ufficiali nobili poterono riscontrarlo appieno nei socialisti che nel bel mezzo dell'affare Dreyfus, quando ero a Doncier, li avevo sentiti accusare d'essere dei senza patria. Il patriottismo dei militari, così sincero, così profondo, aveva preso una forma definita che essi credevano intangibile e sulla quale si indignavano di veder gettare l'obbrobrio, mentre quei patrioti, in qualche modo inconsci, indipendenti, senza religione patriottica definita, che erano i radical socialisti, non avevano saputo capire quale realtà profonda vivesse sotto ciò in cui non vedevano che formule vane e odiose. Come loro, Saint-Leu si era probabilmente abituato a sviluppare dentro di sé, come parte più vera della sua personalità, la ricerca e la concezione delle migliori manovre in vista dei maggiori successi strategici e tattici, così che sia per lui sia per loro la vita del proprio corpo era qualcosa di relativamente poco importante, che poteva essere agevolmente sacrificato a quella parte interiore, vero e proprio nucleo vitale in loro, attorno al quale l'esistenza individuale non aveva valore che come epidermide protettiva. Nel coraggio di Saint-Leu c'erano elementi più caratteristici e nei quali sarebbe stato facile riconoscere la generosità che aveva costituito all'inizio il fascino della nostra amicizia, nonché il vizio ereditario, che si era poi destato in lui e che, assieme al fatto di non aver superato un certo livello intellettuale, gli faceva non soltanto ammirare il coraggio, ma spingere l'orrore dell'effeminatezza sino a una certa ebbrezza a contatto con la virilità. Provava in modo sicuramente casto nel vivere all'addiaccio con dei senegalesi che sacrificavano di continuo la propria vita, una voluttà in cui entrava molto disprezzo per i signorini moschiati e che, sebbene gli sembrasse opposta, non era poi così diversa da quella procuratagli dalla cocaina di cui aveva abusato a Tansonville e da cui l'eroismo lo guariva come un rimedio che prende il posto d'un altro. C'era innanzitutto nel suo coraggio quella duplice abitudine di buona creanza che da un lato gli faceva coprire gli altri di elogi, accontentandosi per sé di comportarsi bene senza minimamente parlarne, al contrario di un Bloch che durante il nostro incontro gli aveva detto «Voi, si capisce, ve la squagliereste» e che non faceva niente. E dall'altro lo portava a non tenere ciò che gli apparteneva, il suo rango, il suo patrimonio, la sua vita stessa, in alcun conto, a donarli. In una parola, la vera nobiltà della sua natura. Ma tanti sono gli elementi da cui deriva, intrecciandoli, l'eroismo, che nel suo avevano parte sia la nuova inclinazione che si era manifestata in lui, sia anche la mediocrità intellettuale che non era mai riuscito a superare. Prendendo le abitudini del signor di Charlus, Robert si era trovato a prendere anche, sebbene in una forma assai diversa, il suo ideale di virilità. «Ne avremo per molto?» chiese a Saint-Lou. «No, prevedo una guerra brevissima», mi rispose. Ma in proposito i suoi argomenti erano, come sempre, libreschi. «Pur tenendo conto delle profezie di Moltke, rileggi», mi disse, come se lo avessi già letto, «il decreto del 28 ottobre 1913 sulla condotta delle grandi unità. Vedrai che la sostituzione delle riserve del tempo di pace non è organizzata e nemmeno prevista, cosa che sicuramente non sarebbe stata omessa se si prevedesse una guerra lunga». A me sembrava che il decreto in questione si potesse interpretare come una prova non già del fatto che la guerra sarebbe stata breve, ma dell'imprevidenza che lo sarebbe stata e di come sarebbe stata da parte di chi aveva redatto quel decreto e non aveva avuto alcun sospetto di cosa sarebbe potuto essere in una guerra stabilizzata lo spaventoso consumo di materiali d'ogni genere, né la solidarietà fra diversi teatri d'operazioni. Al di fuori dell'omosessualità, nelle persone più estranee per natura all'omosessualità, esiste un certo ideale convenzionale di virilità, di cui l'omosessuale, se non è una persona superiore, si trova a disporre, d'altronde per snaturarlo. Questo ideale, che è di certi militari, di certi diplomatici, è particolarmente esasperante. Nella sua forma più bassa è semplicemente la ruvidità del cuor d'oro che non vuole mostrare la propria commozione e al momento di separarsi da un amico che sta forse per essere ucciso prova in fondo una voglia di piangere di cui nessuno si accorge perché la nasconde sotto un crescendo di collera culminante al momento del congedo in questa esplosione. «Corpo di mille fulmini! Andiamo, razza di idiota, dammi un bacio e prendi questa borsa che a me dà solo fastidio, imbecille che non sei altro!» Nel diplomatico, nell'ufficiale, nell'uomo che sente come solo una grande impresa nazionale abbia importanza, ma ha tuttavia nutrito un qualche affetto per il piccino che era in legazione o al battaglione ed è morto di febbri o d'una pallottola, è presente lo stesso gusto della virilità in una forma più abile, più sapiente, ma in fondo altrettanto odiosa. Non vuole piangere il piccino. Sa che presto non ci si penserà più, non più del medico di buon cuore, che tuttavia, la sera della morte d'una piccola malata contagiosa, prova una pena che evita ad esprimere. Per poco che il diplomatico sia scrittore e che racconti questa morte, non dirà d'aver provato pena, no. Prima di tutto per pudore virile, e poi per abilità artistica, che fa nascere l'emozione dissimulandola. Assieme a un collega veglierà il moribondo. Non una sola volta diranno d'essere tristi. Parleranno delle faccende della legazione o del battaglione, con più precisione anzi del consueto B. Mi ha detto: non dimenticate che domani il generale ci passa in rassegna. Fate in modo che gli uomini siano in ordine. Lui, di solito così dolce, aveva un tono più asciutto del solito. Notai che evitava di guardarmi. Anch'io mi sentivo nervoso. E il lettore capisce che quel tono asciutto è la pena in esseri che non vogliono mostrare di provarla, il che sarebbe semplicemente ridicolo, se non fosse anche alquanto esasperante e schifoso. Perché è il modo d'essere triste di chi crede che la tristezza non conti, che la vita sia più seria delle separazioni, eccetera, finendo così col dare, in occasione delle morti, quell'impressione di menzogna, di niente, che dà a Capodanno il tizio, il quale, portandovi dei marron glacé, vi dice: «Vi auguro ogni bene», sogghignando, ma comunque ve lo dice. Per terminare il racconto dell'ufficiale o del diplomatico che veglia col cappello in testa perché il ferito è stato trasportato all'aperto, il moribondo, a un certo punto è la fine. Pensavo, bisogna tornare a prepararsi per la parata, ma non so davvero perché, nel momento in cui il medico lasciò ricadere il polso, ci trovammo, B ed io, senza esserci intesi, il sole batteva a picco, forse avevamo caldo, a toglierci dritti in piedi davanti al letto i nostri kepi. E il lettore capisce perfettamente che non è a causa del calore del sole, ma per emozione davanti alla maestà della morte, che quei due uomini, virili, che mai hanno sulle labbra le parole tenerezza o pena, si sono tolti il cappello. L'ideale di virilità degli omosessuali alla Saint-Luc non è lo stesso, ma è altrettanto convenzionale e altrettanto menzognero. La menzogna sta per loro nel non volersi render conto che il desiderio fisico è alla base dei sentimenti, cui attribuiscono un'altra origine. Il signor di Charlus detestava l'effeminatezza. Saint-Luc ammira il coraggio dei giovani, l'ebbrezza delle cariche di cavalleria, la nobiltà intellettuale e morale delle amicizie fra uomini, interamente, pure, in cui si sacrifica la propria vita l'uno per l'altro. La guerra, che delle capitali in cui non ci sono più che donne fa la disperazione degli omosessuali, è invece l'appassionato romanzo degli omosessuali se sono abbastanza intelligenti da fabbricarsi delle chimere, ma non tanto da saperle smascherare, da riconoscerne le origini, da giudicarsi. Così, mentre alcuni giovani s'arruolarono solo per spirito di imitazione sportiva, come un certo anno tutti giocano al diavolo, per Saint-Luc la guerra fu piuttosto quello stesso ideale che immaginava di perseguire nei suoi desideri, molto più concreti, ma annebbiati di ideologia. Quell'ideale perseguito in comune con gli esseri che prediligeva, in un ordine cavalleresco puramente mascolino, lontano dalle donne, dove avrebbe potuto rischiare la vita per salvare il suo attendente e morire ispirando ai suoi uomini un amore fanatico. E dunque, sebbene nel suo coraggio vi fossero molte altre cose, il fatto d'essere un gran signore ne faceva parte, e ne faceva parte, in una forma irriconoscibile e idealizzata. L'idea del signor di Charlus che fosse essenziale per un uomo non avere niente di effeminato. D'altra parte, allo stesso modo che in filosofia e in arte due idee analoghe valgono solo per il modo in cui sono sviluppate e possono differire moltissimo a seconda che siano esposte da Senofonte o da Platone, così, pur riconoscendo quanto l'uno nel suo comportamento prenda dall'altro, ammiro infinitamente di più Saint-Luc, che chiede d'essere mandato nella posizione più pericolosa, del signor di Charlieu, che evita di mettersi cravatte chiare.